E bentornati a questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends. Al microfono, come sempre, il vostro Jean-Luc. Puntata molto speciale questa settimana perché la band ospite stasera viene da Roma. A voi le presentazioni, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Da Saint Lips. Con i Saint Lips, un viaggio a ritroso per la prima parte, iniziando da alcune formazioni del punk inglese che si distinguevano per la loro originalità. Prima canzone dei Buzzcocks, dal titolo Even Falling in Love, dal disco Love Bites del 1978. La band di Pete Shelley ha ormai più di 30 anni di storia e continua a suonare nei palchi di mezza Europa tra alti e bassi. Secondo voi qual è il segreto della loro longevità? Sicuramente la passione per la loro musica. Secondo me per un artista è importantissimo continuare a fare live, perché è proprio, come posso dire, il cibo quindi per andare avanti. E anche la riscoperta del punk sì, sicuramente agevola la loro riproposizione in questi anni. Magari sono ancora più motivati in questi anni a continuare, visto che c'è una parte di una musica, insomma, che è stata un po' abbandonata, appunto, come il punk. I Saint Lips sono assieme dal 2006. Come vi siete formati e perché avete scelto questo nome? Saint Lips è la spiritualità e la carnalità, principalmente, che rappresenta profano, la vita. Insomma, ecco. Esatto. Un contrasto. Ah, ho capito. Continuiamo con gli X-Ray Specs, guidati dalla istrionica cantante Kitsch Polystyrene. Li riascoltiamo nel loro primo e unico disco del 1978, Jam Free Adolescence, con uno dei loro cavalli di battaglia dal titolo The World Turn Dayglow. Dice sempre che il punk inglese fosse povertà di suoni, in realtà c'erano molte formazioni che si proponevano anche con una sfumatura originale. Che ne pensate? Vai, Antonio. Sicuramente hanno saputo ridare freschezza a quello che era poi il concetto di base del rock, quindi hanno riproposto chitarre in primo piano, riff che portavano per tutta la canzone, quindi secondo me sono state molto importanti le band punk inglese. poi c'erano i concetti di base, quindi pochi, esatto, pochi fronzoli più che altro, diretti, erano sintetici. Un 2-3 pronti via e dritti e al punto. Vostre esibizioni come sono andate? Qual è le più importanti in termini di esperienza? Le impressioni che avete raccolto dal pubblico alla fine dei live? Sicuramente il Circolo degli Artisti è stato un gran bel live, sia per risposta della gente, poi era pieno, quindi siamo stati soddisfatti del calore che siamo riusciti a scambiarci con la gente. Poi l'esperienza alla McGee Night di Londra è stata sicuramente importante, perché siamo stati selezionati dalla McGee e abbiamo suonato al locale di Brixton insieme ad altre band inglesi. Abbiamo chiuso il concerto e la risposta anche del pubblico inglese è stata molto calda, e anche delle band che si sono volute scambiare i contatti con noi a fine cosa esibizione. Positiva, voglio dire, insomma, mica. Mi sembra un'ottima risposta. Concludiamo questa prima parte con i Nine Below Zero. Attivissimi nel circuito blues, esordiscono nel 1980 con Live at Marquee, destando sensazione per quella miscela di mod punk e blues che li rende subito originalissimi, e col tempo si conquistano un loro pubblico di appassionati. Da quel live ascoltiamo il brano Stride Her Out, fra poco per la seconda. I'm wishing my time by going to school. The way you got me rolling about, I can't do my homework anymore. Well, baby, yeah, she got me so blind. I'm walking around a circle, about to lose my mind. The way you got me rolling about, I can't now, baby, you're as sweet as you can be. Anything you do, keep on saying me. By the kiss of your lips and the touch of your hand. Anything you do is pretty grand. Oh, baby, yeah, what can I do? I'm walking around in circles just in love with you. The way you got me. Can't do my homework anymore.